بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أفضل صلوات الله عليه وسلامه. Dialoghi pedagogici del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria. Dialogo 1. Abu Bakr raccontò: un uomo chiese: o apostolo di Allah, chi è il migliore degli uomini? Rispose: un uomo dalla lunga vita, le azioni del quale sono buone. L'uomo chiese ancora: chi è il peggiore? Rispose: un uomo dalla lunga vita, le azioni del quale sono cattive.